Nell'esteso panorama della santità del Novecento, fra tante figure di grandi apostoli della fede, fondatori, fondatrici, martiri, laici impegnati, operatori di pace o votati al sollievo della sofferenza di tanti fratelli, ci sono stati, cari amici, anche figure chiamate alla santità nel quotidiano, persone capaci di far risplendere la luce della fede nella vita di ogni giorno, e spesso in circostanze difficili o addirittura drammatiche. Nella vita, sappiamo, c'è ovviamente la libertà dell'uomo che sceglie, e ogni scelta ha le sue conseguenze, cioè nessuno diventa santo senza averlo voluto veramente, anche se la santità è poi tutta grazia di Dio, e nessuno devia dalla retta via senza sue pesanti responsabilità. È proprio la vita che ci accingiamo a presentare è certamente una delle più sconvolgenti testimonianze di quanto il Signore può operare nella conversione di un'anima e nella sua elevazione spirituale. Proprio questa è la figura di Jacques Fesch, un giovane francese di 27 anni che fu ghigliottinato il 1 ottobre del 1957. Jacques nasce nella famiglia Fesch, famiglia di nobili origini, basti pensare al cardinale Fesch che era zio di Napoleone, e questa famiglia si era trasferita dal Belgio a Parigi verso gli anni 20. Georges Fesch, il papà, era direttore di banca, uomo colto, avventuriero, si vantava spesso dei suoi viaggi in Cina, in Egitto, in Polinesia, era un intenditore di musica e un pianista, ma anche eternamente deluso, fino al più profondo pessimismo, come spesso lo vediamo, lo sono soprattutto i gaudenti. Uomo cinico, ateo fino in fondo, donnaiolo. Dei figli non si curava né tanto né poco, ed essi, pur piccoli, sapevano che di ogni loro azione il papà avrebbe riso alle loro spalle. La mamma di Jacques era in fondo buona, ma introversa, spesso in disaccordo con il marito, ma purtroppo incapace di bilanciare la negativa influenza dell'uomo sui figli. Il tenore di vita era alto, case lussuose, ma case prive di calore, e cambiate frequentemente quasi per un istinto di novità. Così il bambino cresce bello, simpatico, ma profondamente chiuso. Grazie a Dio viene educato per buona parte dell'infanzia in un collegio di sacerdoti e riesce a conoscere almeno qualche volta la dolcezza di quella che poi chiamerà una fede sensibile, una fede vera, profonda. Questo gli accade soprattutto al tempo della prima comunione. Durante l'adolescenza possiamo dire che cresce troppo in fretta, anzi quanto più avrebbe bisogno di una guida, tanto più si trova abbandonato a se stesso. Diventa pigro, sognatore, va male negli studi e per reazione diventa a sua volta cinico. Si appassiona ai ritrovi chiassosi con gli amici, diventa membro di alcuni club di jazz nel quartiere latino di Parigi, al punto da non poter fare a meno di quella realtà. Più tardi, quando sarà in carcere, egli stesso si giudicherà così: «La mia natura era debole, ero fiacco, senza carattere, mi lasciavo sedurre da ciò che è facile, e avevo esperienze derivate da una vita non lussuosa, ma sufficientemente comoda per non farmi prendere contatto con la dura realtà». Ma quello che poteva essere un momento così brutto, così negativo, che avrebbe potuto essere superato anche con un incontro, con una buona maturazione, venne distrutto proprio da quello che era il penoso clima familiare. Dirà Jacques in maniera terribile di quel momento: ambiente familiare detestabile, fatto di urla nei momenti cruciali e di disagio e durezze dopo le crisi, niente rispetto, niente amore. Il papà, che sa essere incantevole con gli estranei, è sarcastico e orgoglioso con i familiari, e quando nega Dio, purtroppo, comincia a diventare un ideale anche per Jacques, e questo lo porterà lontano, lontano veramente dalla fede. In un secondo momento, sempre in carcere, scrive: «A casa nostra c'era tanta religione quanto ce n'era in una scuderia, ed eravamo tutti dei mostri di egoismo e di orgoglio. Nessuno scopo, nessuna morale se non il cinismo, l'ateismo e il disgusto di tutto. Io, scrive, potevo fare quello che volevo che lui, mio padre, se la rideva allegramente. E qui scrive anche lui e parla a tutti noi, soprattutto ai nostri ragazzi. Ciò che mi ha perduto è che non avevo alcuno scopo nella vita. Che fare della vita, scrive Jacques. Era una domanda a cui, dice, non avrei potuto dare nessuna risposta. E così Jacques cresceva inquieto, disorientato, infelice, corteggiato dalle ragazze ma senza amore. Dirà, quando si troverà a un passo dalla condanna a morte, se date dei beni ai vostri figli, si rivolge ai genitori, se date dei beni ai vostri figli ma senza disciplina, è peggio che se li uccideste. A lui, allora, giovane, bastava qualche volgare trucco, diceva, cioè mettere un manichino nel letto e scivolare poi per la grondaia per passare le notti fuori casa senza che nessuno della famiglia se ne accorgesse, o forse, dice, non se ne volevano accorgere. A 19 anni interrompe gli studi, si impiega in banca ma per poco, non sopporta il lavoro. Si appassiona ai viaggi, al suo sempre amato jazz, alla mineralogia, una scienza che lo ha sempre interessato, ma del Signore non si cura più, non pensa più. Anzi, a chi gli fa qualche domanda, risponde scimmiottando il padre che Dio è una graziosa leggenda, la consolazione di coloro che soffrono, la religione dello schiavo e dell'oppresso. Da quando ha 17 anni, intrattiene anche un'amicizia con Pierrette Polak, figlia maggiore di una numerosa e ricca famiglia borghese, di origine ebraica, che gli altri Fesch, in quanto nobili, guardavano dall'alto in basso. A Pierrette Jacques sembra dolce, bello. Lui invece è attratto dall'esuberanza e dal brio di quella fanciulla cui piaceva danzare, infatti era stata anche allieva ballerina dell'opera. Erano diversi tra loro, ma si sentivano attratti proprio da questa diversità. Nel 50, giunto all'età di 20 anni, Jacques dileva e viene inviato tra le truppe francesi ancora a distanza in Germania. Pierrette ottiene invece dal padre il permesso di andare a lavorare a Strasburgo e qui si incontrano frequentemente. Infine Pierrette resta incinta. Allora ci si sposa e la reazione commossa e un po' incosciente di Jacques alla notizia. Pierrette invece, ancora impaurita, se ne esce con un infelice «Va bene, casomai dopo divorzieremo» e lui si sente profondamente ferito. Sanno anche che il loro matrimonio sarà osteggiato, ebreo il padre di lei, antisemita arrabbiato il padre di lui, e che per sposarsi senza consenso dovranno aspettare la maggiore età. Perciò vivono l'attesa come due sposini segreti e trepidanti. Si sposano civilmente, alla sola presenza del padre di lei, un mese prima che nascesse la piccola Veronica. Qualche bella vacanza riescono a farla nella villa di montagna che i Polak avevano in Svizzera. Si sentivano felici, ma dovettero passare altri 10 mesi di unione limitata, infatti lui era ancora militare, fatta di rari incontri e molti distacchi. E non ci si poteva aspettare che Jacques fosse sempre fedele. Nell'aprile del 52 ebbe finalmente il congedo con l'attestato di buona condotta per aver servito la patria con onore e fedeltà. Si pose allora il problema del lavoro e furono altre separazioni. Pierrette e la bambina vivono a Strasburgo, Jacques impara il lavoro a Nancy, nell'industria di carbone del suocero. Per fortuna la mineralogia l'aveva sempre interessato, vive però in un albergo. È comunque un periodo che lascia nei due sposi qualche dolce ricordo, le vacanze in Svizzera, alcune gite e molte serate in cui, a casa dove Jacques cucina e inventa ricette, e soprattutto i giochi con Veronica, la piccola bambina, la piccola Veronique. Ma non mancano bronce e gelosie. Dirà a questo proposito Jacques, vivevamo senza un briciolo di organizzazione, giorno per giorno, e i soldi bastavano appena appena per chiudere il mese. A partire dal giorno 25 il credito andava al galoppo, eravamo dei ragazzi terribili. Ma vedi, Pierrette, le scriverà Jacques quando sarà in carcere, in fondo tutto quello che ci è capitato ce lo meritavamo. Non ci poteva essere nulla di puro tra di noi, perché l'uno e l'altro passavamo il nostro tempo a divertirci. Una unione come questa non poteva sfociare che nell'insuccesso. E questa, cari amici, la saggezza di un giovane condannato a morte, messo ormai di fronte alla terribile realtà della vita. ma quale profondità quando vede retrospettivamente che il suo matrimonio si distruggeva perché, diceva lui, non ci poteva essere niente di puro tra noi, intendendo con questa affermazione che ognuno possedeva allora l'altro per sé, ciascuno per il proprio benessere e il proprio divertimento. Comprende ora che la purezza di due coniugi è invece nella sponsalità, cioè nell'irrevocabile e sempre nuovo dono di sé che ciascuno fa all'altro. Ma questo Jacques lo capirà nella cella della morte, proprio nel momento in cui ogni ricordo amoroso avrebbe dovuto sembrargli dolcissimo. E il matrimonio infatti non durò. In parte erano fragili due ragazzi, in parte si misero di mezzo le famiglie ostili tra loro, in parte Jacques creò dei pasticci economici nella fabbrica del suocero, subito messi a tacere, e si allontanò progressivamente dal lavoro. Anche la casa di Strasburgo, dove vivevano la moglie e la bimba, cominciarono a dargli fastidio. Si iniziò con qualche vacanza separata, poi Pierrette tornò definitivamente dai suoi genitori e Jacques si licenziò dalla ditta del suocero e andò a vivere con la mamma. Nel frattempo anche ella si era separata. Racconta di averlo fatto piangendo, dice lui, ma di aver provato due sensazioni. Una pena che non era amore ma pietà e una fortissima sensazione di libertà. Finalmente disse avrei potuto fare tutto ciò che volevo. Ero libero. E per 5 o 6 settimane mi sono gettato su tutto quello che poteva afferrare con frenesia. La madre gli diede 1 milione di vecchi franchi perché iniziasse un'attività in proprio. Ne spese subito 500.000 per un'automobile di lusso. E comunque l'impresa lavorativa che voleva mettere in piedi fallì prima ancora di cominciare, inghiottendo quei pochi soldi che gli restavano. La madre, molto irritata per questo atteggiamento, lo lasciò andare, si disinteressò di lui. Jacques tornò allora dalla moglie, la cui lontananza assieme a quella della bimba lo tormentava. Ricominciarono a frequentarsi. Pensavano così di trovare due vantaggi. Non avevano fastidi dalle rispettive famiglie e si illudevano di tornare ai bei tempi della prima giovinezza. Ma nel cuore loro deva un terribile tarlo. Dice, «Sapevo da molto tempo che sarei finito male. Prevedevo chiaramente che il giorno in cui mi fossi stato dato di essere arbitro di me stesso, quindi di usare della mia libertà, sarei stato incapace di agire con rettitudine. Ero inquieto, dice Jacques, disorientato e sommamente infelice. E qui, cari amici, cosa può produrre la mancanza di un padre e di una madre, possiamo dire ai primi volti di Dio, e poi la mancanza di una sposa che sia presenza di un profondo amore cristiano, è qui documentato in maniera impressionante. Quando Jacques vorrà giudicare fino in fondo le sue responsabilità, si troverà a dire «Ho la sensazione di non essere mai stato libero, realmente libero di scegliere una strada piuttosto che un'altra». Ma questo è il segno paradossale che si ottiene quando si è incamminati sulla strada del male. Più si usa in modo spregiudicato di questa libertà, in modo negativo di questa libertà, cioè nel peccato, e meno liberi ci si sente. Si diventa quasi schiavi del peccato stesso, no? Accade così ciò che gli altri avrebbero poi, come vedremo tra un attimo, gli altri avrebbero poi chiamato feroce omicidio e che Jacques chiamerà sempre ineluttabile fatalità. C'è in effetti un, possiamo chiamarlo un vento di follia in quello che stiamo per raccontare. Follia e incoscienza non diversa, cari amici, da quella che, a volte, prende proprio i giovani dei nostri tempi, che finiscono poi nella cronaca nera per azioni umanamente inspiegabili. Jacques era giovane, solo, senza lavoro, ma soprattutto senza un vero scopo nella vita. In quel dopoguerra i giovani parlavano molto di viaggi e di evasioni, e nella sua fantasia si accendeva l'immagine di questo padre, del padre che aveva padre viaggiatore, che dalle lontane isole del Pacifico aveva portato ricordi, oggetti, esperienze. Gli occorrevano per questo, assolutamente gli necessitavano, più di 2 milioni di franchi per comprare una piccola imbarcazione e mettersi in viaggio da solo verso quelle isole di sogno. Si rivolse al padre, e il padre gli rise in faccia. I soldi a questo punto per lui divennero un'ossessione, quasi anche una vendetta nei confronti del padre. E per averli, e averli subito e senza fatica, non c'era per lui che un mezzo, rubarli. Era in uno stato d'animo, racconta, questo lo dice Pierrette, era in uno stato d'animo unico. Lo vedevo come un morto, dice lei, quando erano insieme. Come un morto. Stava per capitare qualcosa e qualcosa di cattivo, ed io, diceva Pierrette, tremavo, ma non potevo fare nulla. E la cosa più tremenda è che proprio in quei momenti in cui qualcuno avrebbe potuto consigliarlo, suggerirgli, indirizzarlo in un modo diverso, non ci fu. È una cosa è incredibile, però quello che succede nella vita di questo ragazzo allora è l'assenza totale di un aiuto in quel momento, di un indirizzo preciso, proprio di un aiuto per evitargli la follia che avrebbe fatto da lì a poco, come vedremo. La mattina del 25 febbraio del 54, Jacques si reca nella bottega di un cambiavalute ebreo, conoscente del papà, e gli ordina dell'oro. La sera, dice, sarebbe venuto col denaro a ritirarlo. Intanto aveva comprato una pistola, ma doveva servire solo a spaventare questo cambiavalute. Aveva perfino tolto i proiettili e si era cercato due complici per avere aiuto. E furono proprio questi, abituati al mondo del crimine, a convincerlo a rimettere i proiettili nell'arma. A sera si presenta in negozio lasciando l'auto posteggiata in una strada vicina. Mentre il cambiavalute sta estraendo l'oro dalla cassaforte, lo colpisce al capo con il calcio della pistola, parte un colpo e si ferisce lui stesso alla mano. Fugge così a piedi, sanguinando, senza nemmeno pensare alla macchina. Correndo però perde gli occhiali, lui che è fortemente miope, vede poco e male. I complici, per distogliere da sé l'attenzione, anzi sono i primi a descriverlo alla polizia per farlo arrestare. Lo inseguono e Jacques si rifugia in un grande caseggiato salendo verso i tetti. Ridiscende molte ore dopo quando pensa che la caccia si sia interrotta, ma mentre sta per uscire dalla porta viene riconosciuto. Gli intimano di fermarsi ed egli, in preda al panico, senza riuscire bene a distinguere chi abbia davanti, spara attraverso l'impermeabile e colpisce a morte un agente. Scappando disperatamente, ne colpisce un altro ancora di striscio. Ormai in preda al panico, non capisce più nulla, continua a sparare contro chi gli si para dinanzi per fermarlo, senza però colpire nessuno. Al termine di una corsa folle e insensata, è bloccato da un anziano ispettore di polizia, e qui comincia la sua passione. Li sputano in faccia, lo percuotono a sangue, lo conducono ammanettato e piangente, e il suo sogno di mari sconfinati ed isole tropicali si infrange nel buio di una cella della Santé, che è il carcere di Parigi. L'avvocato, quando lo incontra e lo valuta per la prima volta, dice: «Sembrava che avesse continuamente bisogno di un'iniezione di cemento armato, tanto era grande la sua apatia. Ma ora che è completamente solo, per giorni e giorni, sente di dovere ad ogni costo spiegare a sé e ai suoi cari quello che è accaduto e perché è accaduto. Non si tratta solo del processo e degli interrogatori, o del confronto con le sue vittime e i suoi accusatori e delle confidenze agli avvocati, si tratta proprio di una necessità più profonda. E Jacques stesso che si interroga e si accusa con tutta la più cruda durezza e impietosità, e si difende anche secondo quello che la coscienza gli detta. Lo fa ogni giorno, nelle brevi lettere che gli sono consentite, 60 righe al giorno, lo fa davanti a se stesso, alla sua Pierrette, alla piccola Véronique, e poi, e ancora molto lontano da Dio, piano piano lo farà davanti al suo Dio. Scrive: «Mia povera Pierrette, ora tutto è finito per me. Sono stato folle e bisogna che paghi. La cosa più triste è che lascio delle vittime. Quanto a te, la tua vita è spezzata per colpa mia e la nostra povera bambina. Prima della sua folle avventura aveva percepito che sarebbe bastato un nulla per fermarlo, ma dicevamo niente era accaduto. Ora, proprio ora, il Signore lo chiama ad un cammino di pentimento profondo, di profondissimo dolore, ma anche ad un cammino, come vedremo, di grande grazia. E qui comincia a leggere moltissimo mentre tiene sul tavolino una grande foto della sua bimba. Il carcere passa 6 libri alla settimana, in genere romanzi d'ogni specie, ma anche molti classici, ma non gli bastano. Altri libri giungono dalla famiglia, altri ancora dal cappellano e dall'avvocato. Proprio l'avvocato, Paul Baudet, è un convertito e un terziario carmelitano e non gli fa mancare qualche impegnativa opera spirituale come le opere di Santa Teresa d'Avila, di Santa Teresina di Lisieux e poi anche la vita di San Francesco d'Assisi. Ebbene, cari amici, strano a dirsi, proprio attraverso la lettura Jacques comincia a conoscere la vita, i caratteri, le passioni, i desideri, le possibilità di peccato e di santità, la grandezza e la miseria del cuore umano, le altezze e le volgarità del pensiero. Legge addirittura la Divina Commedia. E scrive alla moglie: «Ho fatto il conto quest'anno d'aver divorato 250 libri, senza contare le riviste o altro. Non c'è male. Ancora 2 o 3 anni e sarei una biblioteca ambulante». Ma si accorge di un terribile paradosso. Ha avuto tra le mani la vita reale e ha vissuto di fantasie vuote fino a quel momento. Ora ha tra le mani la vita di altri, sia pure raccontata e descritta, la vita dei santi, e comincia a comprendere veramente qual è la realtà. Ricorda il tempo sciupato a scuola, quando credeva che libri e letture non servissero a nulla, e si accorge che proprio allora, con la sua indolenza e passività, col suo rifiuto della scuola, aveva cominciato a distaccarsi dalla vita. E qui il processo penale dura 3 anni. Continui viaggi al palazzo di giustizia in furgone chiuso e continui ritorni in cella. Descrive così la cella: 4 muri bianchi, pavimento di mattonelle arancione, una piccola asse per tavola, uno sgabello incatenato, un letto fissato al muro, un lavandino, un WC e un piccolissimo armadio, 10 metri quadrati di spazio vitale. La cosa più noiosa è che coricarsi durante la giornata è proibito. Il letto deve essere ribaltato, tanto che durante 12 ore bisogna restare seduti sullo sgabello e in piedi. E questo finisce col far male alle reni. E poi questa tensione continua. E qui c'è un'altra grazia grossa. Davanti al figlio in carcere, i genitori di Jacques si riconciliano un poco e vanno insieme a trovare il figlio a cui dimostrano così una certa tenerezza che non ha mai visto, soprattutto da parte del padre. La stessa cosa fanno i suoceri. Ed è la mamma, cari amici, proprio lei che non l'ha saputo aiutare da piccolo, è lei a dare il via alla sua conversione. Tanto è dolce il Signore quando si mette a ricostruire le nostre macerie. Addirittura, pensate, più tardi, quando saprà, sconvolta, che il figlio rischia la ghigliottina, la povera donna che non ha saputo fare la mamma, giunge e lo fa, offre a Dio la propria vita affinché il figlio possa almeno morire bene. Certo, per la conversione di Jacques molto è stato fatto dal cappellano del carcere e dal saggio avvocato, ma è lei, la madre, che porta al figlio in carcere un volume sulle apparizioni di Fatima. Ed egli, leggendo, si sente scosso proprio nella sua incredulità, è sconcertante, dice, e prova a ricercare i motivi per credere, mentre i ricordi dell'infanzia cominciano a riaffiorare. Ritorna particolarmente alla mente il ricordo della sua prima comunione e il desiderio di ritrovare quella fede sensibile che sentiva allora. E anche le circostanze lo aiutano. Per esempio, nella cella vicina c'è un belga e un maniaco che grida tutto il giorno «Dio, perdonami». Potrebbe forse essere per lui motivo di fastidio e forse ancora di più profondo rifiuto. Diventa invece anche questo una goccia che scava la pietra. Jacques se ne accorge e comincia perfino a scherzarci su con la moglie e scrive: «Pierrette, tu mi vedi tanto materialista al 100%, terra terra e in tutto e per tutto. Insomma, gli avvenimenti lo provano. Chissà, forse un giorno le tenebre si squarceranno e io, dice Jacques, scrive alla moglie, e io me ne volerò per le sfere celesti della spiritualità. Fa attenzione, dice, per potermi seguire, perché i grandi peccatori pentiti diventano grandi santi. Il Signore lavora profondamente nel suo cuore, dopo 8 mesi di carcere e sulla soglia della conversione. Medita molto, per esempio, sulla felicità. Felicità che ha sempre cercato, ma che non ha mai avuto. E scrive a questo proposito alla moglie: «Credo che tu, Pierrette, non veda le cose con i miei stessi occhi. Suppongo che per te la vita che abbiamo condotto a Strasburgo fosse la felicità perfetta. Io ero atrocemente infelice. Vivevamo come bestie. Ad ogni momento avevo voglia di scoppiare. Vedi, ora che sono in prigione, infelice e senza alcuna soddisfazione, in un certo senso sono più felice perché sono d'accordo con me stesso. Ma essere trascinato com'ero a vivere una vita da vegetale fino alla vita eterna non poteva condurci che a una catastrofe». Ma c'è ancora un ostacolo alla fede, di cui, cari amici, piano piano si renderà conto. Lui stesso scrive: «Tentavo di credere con la ragione, senza pregare o pregando poco». E invece la fede giunge, piena, assoluta, proprio quando lo colpisce un altro dolore atroce. Infatti la moglie, proprio mentre durante le visite parla di un matrimonio, di un eventuale matrimonio religioso, Pierrette gli rivela di averlo tradito alcuni mesi prima. Una rivelazione che lei gli fa ora che questa relazione è finita da tempo e a cui non dà importanza. Ma proprio questo dolore profondo che gli tocca il cuore, Gesù lo usa per trasformarlo. Ascoltiamo cosa scrive Jacques. «Alla fine di un anno di detenzione mi ha percosso un intenso dolore». E riguarda questa cosa, naturalmente. «E bruscamente, in poche ore, ho posseduto la fede con certezza assoluta. Ho creduto, e non capivo più come facevo prima a non credere. La grazia mi ha visitato, e si è impossessata di me una grande gioia, soprattutto una grande pace. Tutto è diventato chiaro in pochi istanti». Ma non è stata una cosa strana, eh? Cioè, raccontiamo cosa è successo esattamente. Anzi, lo racconta lui, proprio quella sera, dopo l'incontro che ha avuto con Pierrette. «Quella sera, dice, scrive Jacques, ero a letto, con gli occhi aperti, e soffrivo realmente per la prima volta in vita mia, con una intensità rara, per ciò che mi era stato rivelato riguardo a certe cose di famiglia. E fu allora che un grido mi scaturì dal petto: "Mio Dio!" E istantaneamente, come un vento impetuoso che passa senza che si sappia d'onde viene, scrive Jacques, lo spirito del Signore mi prese alla gola. Aveva avuto pienamente il dono della fede. Dopo questo momento c'è un colloquio chiarificatore sia tra Jacques e Pierrette e decidono, comunque si rendono conto che vivono in fondo l'un per l'altro, si vogliono bene, si amano, hanno questa meravigliosa bimba, quindi il loro desiderio è quello di continuare ad essere marito e moglie, quindi a vivere insieme. E proprio in questo periodo Jacques ha conosciuto un amico religioso che si chiama Thomas, un frate benedettino. Anche egli convertito, pensate, si erano conosciuti nei club di jazz. E proprio a Thomas indirizza le lettere più intime e al quale racconta il cammino spirituale per cui Dio lo sta conducendo. E la cosa bella che illuminare questo cammino è proprio l'Eucaristia. Quella santa comunione ricevuta da bambino che ora diventa per lui la luce. All'inizio, in carcere, può riceverla soltanto una volta al mese, poi sempre più spesso. «Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me», dice, ripetendo le parole di San Paolo, e spiega: «Ora ho la certezza di cominciare a vivere per la prima volta. Ho la pace e ho dato un senso alla mia vita, mentre prima non ero che un morto vivente. Ma quali drammi prima di giungere a questo? Quali conseguenze io devo e dovrò sopportare per tutta la vita? La morte di un uomo, la gente che avevo ucciso, l'infelicità di mia moglie e di una giovane, due fanciulli che soffriranno, un'orfana. Quanto male ho potuto fare attorno a me col mio egoismo e la mia incoscienza. Nel frattempo legge il castello interiore di Santa Teresa d'Avila e per 6 mesi cerca perfino di vivere una meditazione continua perché desidera sperimentare cosa sia l'unione con Dio. Poi scopre che questo non è una conquista, ma è un dono. E il Signore questo regalo, questo dono glielo concede. Scrive Jacques in questo momento della sua vita che sarà indimenticabile. Scrive: questo momento è una fase di felicità che termina una sera con una unione breve ma intensa con Dio che non dimenticherò mai. È un momento, dicevamo, per lui indimenticabile della sua vita che lo accompagnerà fino al momento della morte. Poi, dopo questo momento, ritorna in lui una certa aridità, con momenti oscuri, con nuove pigrizie e incertezze. Ma ha scoperto, una volta per tutte, quella che è la preghiera. Ha scoperto il mistero del cuore umano, là dove ciascuno di noi custodisce, anche senza saperlo, una piccola celletta che è destinata soltanto all'incontro con Dio. Intanto il dramma con Pierrette continua. Jacques capisce che la loro unione dipende dal fatto che lei ritrovi la fede. Le scrive: vedi, in tutta la nostra vita coniugale, tu mi davi l'impressione di amarmi come una droga, come se io fossi il tuo oppio e ne soffrivo più che non ti immagini. E se restavo distante era per non darti pena, poiché se avessimo aperto i nostri cuori ti avrei detto: Pierrette, io non ti amo, sono infelice. Voglio soltanto farti capire che io avevo già bisogno di te in quel momento, quando io non ero altro che un morto vivente. Siamo tutti affamati di tenerezza, anche se per orgoglio lo neghiamo. Dio è amore, e noi siamo il suo pallido riflesso. Comprendi ora che il tuo amore e il mio possono salvarci, ma bisogna amare per l'altro e non per sé. Sono alti e bassi, momenti di trasporto che nemici di rifiuto, anche perché Jacques progetta un futuro ma senza rendersi conto dell'esito tragico verso cui il processo è incamminato. Dalla prigione lui le parla a sua moglie continuamente di Dio e le parla in maniera struggente parla del rapporto d'amore che vorrebbe realizzare con lei. Ma Pierrette resiste, anzi, lei dà la colpa a Dio di tutte le loro sventure e respinge questo invito a ritornare al Signore, tanto più ora che il processo non va affatto bene. E proprio in prigione Jacques cerca intanto di organizzare la sua vita alla maniera monastica. Chiuso in 10 metri quadrati di cella, comprende che l'unica maniera intelligente di restarci è quella di imitare, e questo lo desidera profondamente, di imitare almeno un po' quelli che in cella e in clausura ci stanno per amore. E impara dalle notizie che l'amico frate, l'amico benedettino, gli dà nella sua vita in monastero. E qui, già per regolamento carcerario, i contatti col mondo si limitano a mezz'ora di passeggio al giorno, passeggio solitario, mezz'ora di parlatorio alla settimana e un pacco al mese. Unica occupazione è la lettura e la posta. Per il resto, alle 8 di mattina legge su un messalino la messa del giorno perché è proprio l'ora in cui vi assiste anche il suo amico frate. E gli scrive: e poi, amico mio, cerco maldestramente di rimanere in colloquio con Dio attraverso la meditazione su quanto ho letto. Infatti sta leggendo l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila. E di rimanere in colloquio con Dio attraverso la preghiera. Attualmente, dice, faccio la via crucis, sforzandomi di concentrare la mia attenzione su ogni scena e comprenderla. Confesso che fin qui non avevo mai capito la passione del Signore. A forza di riflettervi su, nuovi aspetti colpiscono il mio spirito. E quando scende la sera, avvolto nell'oscurità, concludo la mia giornata con la compieta della domenica. Ogni tanto pensa al papà e dice: mio padre 72enne mi scrive che non vede più distintamente e che finirà col mangiare la cicoria dalla parte delle radici. Mi preoccupa. È un ateo integrale che non si è accostato al confessionale almeno da 45 anni. Soffre molto, scrive Jacques, per la sua miseria fisica e morale, ma è tanto orgoglioso e sarà certamente durissimo da piegare. Io prego la Santa Vergine che mi esaudisca, ella che è la sorgente di una misericordia infinita. La cosa strana, cari amici, è che proprio il papà, pur continuando a dirsi ateo e a sostenere che Dio è una favola, ogni settimana, durante la mezz'ora di colloquio con Jacques, quella mezz'ora che gli è concessa, parla soltanto e solo di Dio. E proprio in quella famiglia, in cui tutti i membri erano mostri di egoismo e di orgoglio, come diceva Jacques, ora va accadendo questo miracolo. Ciascuno, singolarmente in gruppo, cioè i genitori e le due sorelle, ciascuno rientra in quella che è la sua coscienza, e la famiglia si riunisce e si rigenera poco a poco, anche se questo processo, cari amici, questo processo di risanamento, è lento e tortuoso. Arriviamo al 7 giugno del 56, quando muore la mamma di Jacques, la madre che ha offerto la sua vita per questo suo figlio. L'anno dopo, nell'aprile del 57, si riapre il processo e si prevede che il verdetto sarà emesso per il prossimo giugno. Scrive Jacques, «Tanto vale finirla subito, in modo che io possa essere di nuovo tra le tue braccia», scrive a Pierrette. Lui è convinto che la condanna, anche se ci sarà, non sarà troppo grave, visto che sa di aver ucciso quasi in stato di trance. E si prepara ad affrontare questo dibattimento, dice, con fede e carità. Fede perché durante il dibattimento vuole sentirsi e restare davanti a Dio suo giudice nella più assoluta verità. Carità perché dovrà amare giudici e accusatori che faranno di tutto per rappresentarlo come un mostro, come in effetti poi sarà. E i tempi allora erano duri. La polizia reclamava un esempio, visto che si trattava dell'uccisione di un agente. A Parigi poi si attendeva la visita ufficiale della regina Elisabetta e il sindacato di polizia minacciava uno sciopero clamoroso in piena visita regale se Fesch non fosse stato condannato a morte. Si fece dunque in modo che in giuria non ci fosse nemmeno una donna per evitare eventuali intenerimenti e si sorvolò non vennero considerate tutte le circostanze attenuanti. Jacques nella sua testimonianza non nascose nulla. Qualche giornalista capì di essere davanti a qualcosa di nuovo, di eccezionale. Qualcuno parlò perfino spontaneamente di santità proprio per la grandezza d'animo che Jacques dimostrava nel difendere accanitamente i suoi complici e a parlare invece di sé con estrema e cruda obiettività. Ma la massa si lasciò trascinare dai luoghi comuni, cioè che ci si trovava davanti a un assassino lucido, freddo, cinico. Alcuni giornalisti addirittura, raggirando la moglie, pubblicarono sue interviste dopo averle sconciamente distorte a danno del marito. Insomma, il giorno che venne condannato a morte compiva 27 anni. Jacques non se l'aspettava. Sapeva di aver ucciso non volendo e non riconosceva alla società il diritto di togliergli per questo la vita. Soprattutto lo sconvolge il fatto che durante il processo lo abbiano accerchiato con odio, martellandogli sempre la stessa parola, assassino, assassino, proprio con una dichiarata voglia di ucciderlo ad ogni costo. Venne così trasferito nella cella 18, una di quelle a pian terreno riservate ai condannati a morte. Sperava ancora che non sarebbero andati fino in fondo. Possiamo immaginarlo vive momenti tremendi per lottare contro l'odio che vorrebbe invadergli il cuore. Sa di essere stato condannato non per la colpa reale che ha commesso, ma per altri motivi, politici. Tutto, dice, si rivolta nel suo intimo e scrive: ogni tanto ho l'impressione di essere invaso da una specie di rabbia fredda e di collera repressa che tento di respingere ad ogni costo. Thomas, l'amico frate, gli indica allora, cari amici, una strada, possiamo dire umanamente impossibile. Cioè invita Jacques ad accettare non solo la condanna, ma ad offrire quella che è la sua vita al Signore. Jacques risponde che è una strada molto bella, ma troppo dura, chi mai lo potrebbe, dice a Thomas. Ma si incammina proprio per questa via umanamente impossibile, proprio il Signore lo chiama su questo cammino. E scrive una specie di diario, diario che vuole lasciare in eredità alla sua bimba, perché quando sarà grande impari ad amare Dio dalle sventure del suo papà, e racconta alla piccola i suoi errori e la sua conversione. Leggiamo un piccolissimo pezzo. Bimba mia amatissima, questo è il mio diario, tutto il mio bene che ti lascio in eredità in mancanza di altri beni. Io vado a morire e questa è una lunga agonia lucida e fredda. Fra 2 mesi sarò morto. Nelle pagine che seguiranno vorrei farti intuire, quanto più visibilmente possibile, la manifestazione della volontà di Dio. Il concatenamento degli atti di cui non discerniamo, di cui non capiamo gli agganci, fino al giorno in cui tutto si compendia nella parola amore, finché saremo in paradiso. E per lei, per Veronique, scrive pagine sconvolgenti in cui le spiega come si sente lui trattato da Dio. Lui, il povero papà condannato a morte, è diventato un bambino nelle braccia di Dio, un bambino che si sente protetto, amato, perdonato. Scrive, Veronique, Gesù desidera questa morte. Se mi toglie il tuo amore di bambina è perché lui ha giudicato preferibile, per il bene di tutti noi, di richiamarmi a sé. E quante cose buone egli è capace di donarti che io non potrò fare. Devi avere fiducia, fiducia, nell'amore di Gesù. Intanto giunge tra le sue mani anche la storia di un'anima, l'autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bambino. E quando legge che la piccola, piccola grande santa ha strappato un condannato a morte alla sua incredulità e lo ha offerto come si offre un figlio a Gesù crocifisso, si sente anche egli compreso e dice: «Il mio caso è troppo simile a questo perché lei non se ne occupi», cioè Santa Teresa. «Amo la sua piccola via e la sua fiducia in Dio, il suo zelo. Pregare, pregare senza sosta, ecco ciò che devo fare. Gesù mi manda da sua madre ed è lei che ha in mano la mia salvezza. Nessuna preghiera mi apporta maggiori consolazioni dell'Ave Maria e della Salve Regina». E dice, e scrive, «Prego ogni giorno la Santa Vergine per te, Veronique, perché ti colmi di grazie e ti prenda sotto la sua protezione. Perché non posso stringerti un'ultima volta tra le mie braccia. Eppure l'amore che ho per te non è che un pallido riflesso dell'amore di Cristo che ti ama infinitamente. Fiducia nel suo amore. A partire da questa sera rinuncio a tutti i cibi cucinati». Il suo cammino di conversione e di fede prosegue sempre più profondamente, cari amici. Infatti, negli ultimi mesi di vita, nonostante abbia già da offrire al Signore un sacrificio come quello della vita che gli sarà strappata in modo violento, mentre giovane, un sacrificio che sente, che assapora, possiamo dire, tutti i giorni e tutte le ore, aggravato da un'angoscia che chiude il cuore e dalle inevitabili paure, Jacques decide di offrire altri sacrifici. Perché la vita non gli venga solo strappata, vuole cominciare a dare ciò che lo aiuta a vivere. Liberamente quindi rinuncia al fumo, che gli sarebbe quasi necessario in quelle ore interminabili, poi ai dolci, di cui sente a volte un desiderio insaziabile, poi alla carne. Si riduce praticamente quasi a pane d'acqua. E la vita lui vuole donarla, non cederla per forza. Dice che spesso questi sacrifici gli servono di più di lunghe preghiere. Jacques, che a tutto era abituato meno che a soffrire, capisce che è impossibile offrire davvero la vita a Dio se non si impara prima ad offrire liberamente anche quello che ci lega alla vita. Ogni tanto il pensiero dell'ingiustizia di cui si sente vittima lo riprende. Davanti a Dio dice: «Non volevo né ho previsto le conseguenze del mio primo atto. Ho agito assolutamente senza consapevolezza e pertanto involontariamente». Non vuole giustificarsi, però vuole chiarire quello che è il suo stato d'animo. A periodi i ricordi, anche le analisi sul passato, ritornano e lo avvolgono di tenebra, ma non è più una tenebra fatta di depressione e di angoscia. È qualcosa che gli amici che conoscono bene, i mistici, c'è un'oscurità in cui Gesù ti immerge per purificarti dalle ultime scorie, dagli ultimi attaccamenti, dalle ultime radici di male. Un'oscurità in cui l'amore di Dio sembra allontanarsi, ma il desiderio di Lui, di Gesù, cresce fino allo spasimo. Ed è in questa notte oscura, fatta di attesa, egli deve vivere anche per tutti i suoi cari, perché tutti li vuole condurre con sé su quella che sarà la sua croce, il patibolo, per prepararli alla Pasqua. È una notte completa, scrive Jacques. Sento che sono giudicato e saggiato in questo momento, e fin tanto che resisterò, il Signore sarà contento. C'è da fare una risurrezione completa in tutta la nostra famiglia, e quando sarà fatta riparazione, agirà la misericordia e coleranno lacrime di gioia. E la sua tenerezza dimorente torna spesso alla sua bimba. Ho ricevuto la piccola ciocca di capelli di Veronique, così fini, biondi, morbidi. Ho l'impressione di avere la mia piccola nella cella. C'è qualcosa di lei di vivo che finalmente posso toccare, scrive. Ma c'è anche quella tenerezza aspra, violenta quasi, per il papà, ormai vecchio e disfatto. E scrive Jacques, o di mira mio padre, è soprattutto lui che ha bisogno di essere salvato. Lo scompiglio, lo incalzo, lo minaccio, non disdegnando la profezia con accenti degni del grande Isaia, e deve esserne sbalordito. Voglio tenere la Santa Vergine per mano, e non più lasciarla fino a che ella mi conduca dal figlio suo. Sono molto preoccupato dal pensiero di mio padre. Offro la mia vita per lui, e sono certo che Gesù ne avrà pietà. Pierrette, intanto, rimane sempre la stessa. Il 14 settembre, dopo un ennesimo colloquio col padre, scrive Felice: «E ha due dita dalla fede, basta un nulla, e cadrà ai piedi di Cristo, e fra poco sarà cosa fatta». Pierrette resta invece la sua ultima croce. Lui vorrebbe il matrimonio religioso e chiede alla moglie di confessarsi e comunicarsi, ma lei è bloccata. Con tristezza, ma non senza affettuoso umorismo, egli la descrive così alla suocera che tratta ormai come una mamma. Scrive: «In fondo Pierrette aspetta la fede per pregare, e non vuole pregare per avere la fede. Allora ecco, scrive, quando sarò lassù toccherà a me pregare a mia volta per voi e nell'ora della vostra morte». Ormai si è abituato che nemici a vedere tutto nella luce di Cristo. La mia morte, dice, non è che una riedizione ben miserabile del Calvario. È ingiusta, inumana. L'accetto come tale e lo offro per quelli che il Signore vuole salvare. Ed è veramente così grande questa testimonianza. Qui non vogliamo beatificare nessuno, però vediamo questo cammino e questa fede così grande che, insomma, ci fa veramente pensare. È così grande questa fede, questa testimonianza, che lo stesso presidente della Repubblica francese gli manda a dire, attraverso il direttore del carcere: «Dite che gli stringo la mano per ciò che egli è diventato». Eppure, questi sono i misteri della volontà del Signore. La grazia che era stata chiesta dal Presidente della Repubblica, lo stesso Presidente della Repubblica, soprattutto per l'opinione pubblica, gli nega la grazia. Quindi la condanna a morte verrà comunque eseguita. E Jacques scrive: «La croce che porto, infamante agli occhi del mondo, è gloriosa quanto quella del monaco o del missionario». Sente intatta tutta la paura, ma dice che sta risalendo verso il paradiso. Ha la pena di non riuscire a portare con sé alla fede tutte le persone che ama, e scrive: «Quanto a mio padre, spero che il dolore che sentirà per la mia decapitazione salirà dritto al cuore di Gesù. Ho la certezza, scrive, che saranno tutti salvati, ma bisogna probabilmente che soffrano ancora molto». E Pierrette, invece, il Signore gliela dona prima che lui muoia. Scrive infatti Jacques: Ritorno ora dal parlatorio. Finalmente l'ultima visita passata nella pace e tanto vicino a Dio. Pierrette era come avrei amato vederla sempre. Almeno io parto con la ferma speranza che Gesù sarà con lei. Si comunica domani alle 7 del mattino. Quindi aveva finalmente aperto il cuore a quella che era la fiducia nel Signore. Ma nel frattempo a lui è accaduto qualcosa di meraviglioso, di terribile. È una testimonianza incredibile e sente dentro di sé distintamente la voce del Signore che gli dice. Lui stesso scrive: a due riprese distintamente Dio mi ha detto, tu ricevi le grazie della tua morte. È un pensiero, cari amici, difficile a prima vista, ma teologicamente profondo. Il Signore gli chiede di non subire l'ingiustizia, perché ingiustizia è una condanna a morte data solo per dare un esempio, ma di offrire liberamente la vita. In questo modo la morte diventerà un sacrificio, ma le grazie meritate da questo sacrificio il Signore gliele anticipa ora, soprattutto per aiutarlo a sapere ben morire. E arriva, cari amici, anche arrivano gli ultimi giorni. Il 27 settembre, 4 giorni prima dell'esecuzione, scrive: ho ancora il cuore gonfio di amore. Gesù mi è vicinissimo. Mi attira sempre più a sé e non posso che adorarlo in silenzio, desiderando morire di amore. Vorrei, come la piccola Santa Teresa di Gesù Bambino, rinnovare ad ogni battito del cuore questa offerta di divenire vittima di olocausto al suo amore misericordioso, fino a che, scrive Jacques, fino a che, svanite le ombre, io possa ridire a lui il mio amore in un faccia a faccia eterno. Intanto l'esecuzione venne fissata per il 1 ottobre del 57. Il 29 settembre, 2 giorni prima, annota sul diario: perché non posso donare la mia vita come i martiri che muoiono per non rinnegare la fede? Sono colpevole, io, sebbene questo castigo sia ingiusto, e offro ciò che posso offrire al buon Dio. Io non sono libero, però. Se oggi mi proponessero la libertà in cambio di un'offesa fatta a Dio, rifiuterei, preferendo la morte. Io, scrive Jacques, coopero dunque a questa esecuzione capitale, accettandola con tutta la mia anima e offrendola al Signore, e così muoio un po' meno indegnamente. Il 30 settembre, 60° anniversario della morte di Santa Teresa di Gesù Bambino, scrive: ultimo giorno di lotta. Domani a quest'ora sarò in cielo. Del tutto miserabile come sono, mi viene fatto il grande onore di poter imitare nostro Signore Gesù. Sul finire del giorno fu celebrato il matrimonio religioso con Pierrette. Allora stabilita, dopo lo scambio del consenso, passò alcune ore leggendosi e meditando la messa di nozze. Poi scrisse ancora sul suo diario: mi sono unito con tutta l'anima a Pierrette, che ora è mia moglie in Dio. Verso 00:30 scrisse ancora queste parole: ho ancora soltanto 5 ore da vivere. Tra 5 ore vedrò Gesù. Quanto è buono nostro Signore, non attende nemmeno l'eternità per ricompensare i suoi eletti. Mi attira con tutta dolcezza a sé, dandomi questa pace che non è di questo mondo. A un ultimo assalto di paura, quando sente avvicinarsi le guardie, e in fretta scrive anche le sue ultime parole. Scrive: la pace è svanita per dar posto all'angoscia. È orribile. Ho il cuore che mi salta nel petto. Santa Vergine, abbi pietà di me. Santa Vergine, a me. Addio a tutti, che il Signore vi benedica. Era all'alba. Nella corte del carcere La Santé lo attendevano attorno alla ghigliottina il cappellano, l'avvocato Baudet, che era diventato ormai un amico e un padre, il presidente del tribunale che l'aveva condannato e l'avvocato generale che aveva chiesto la condanna, oltre a una 50ina di testimoni, tra cui alcuni giornalisti. Nell'ultima stanza, prima di uscire nel freddo gelido della corte, era stato preparato un altare. Jacques si confessò e comunicò per l'ultima volta. Il cappellano testimonierà: è andato incontro a nostro Signore tanto pronto quanto è possibile esserlo in questa vita. Dopo che gli ebbero legato le mani, disse al cappellano: il crocifisso, padre mio, il crocifisso. E quando il prete glielo posò sulle labbra, lo baciò lungamente. E proprio sul patibolo, dove quasi tutti i condannati salivano divincolandosi, urlando e spesso bestemmiando, Jacques salì con una dignità, una compostezza e perfino una certa luminosità del volto, tanto che i presenti e perfino il boia rimasero scossi. Ma Jacques, già nei primi giorni del tragico e glorioso mese appena trascorso, aveva spiegato come avrebbe camminato incontro alla morte. Scrive così: io, mentre sta andando, descrive già il suo cammino verso il patibolo. Io, dice Jacques, tendo una mano alla Vergine e l'altra alla piccola Teresa. In tal modo non corro alcun rischio, ed esse mi attireranno a sé per consegnarmi al piccolo Gesù per l'eternità.